davanti alla sede della prefettura di Roma in presidio con i lavoratori dell'Argol che manifestano contro i licenziamenti. Il presidio dei lavoratori si è spostato dal presidio permanente che è presente a Fiumicino e in questo momento si è trasferito nel centro di Roma appunto per chiedere al prefetto che è intervenuto nella vertenza di risolvere una situazione davvero intricata. La situazione è questa: i lavoratori dell'Argol si occupano della movimentazione del materiale aeronautico all'interno degli hangar di Fiumicino. Alitalia non vuole rinnovare l'appalto, un appalto che praticamente è presente negli hangar da oltre 20 anni. Molti di questi lavoratori da circa 20 anni appunto fanno questo servizio passando da società in società. È arrivato il momento invece CAI dichiara di non voler rinnovare l'appalto e, cosa ancora più grave, cosa davvero terribile, non vuole applicare la clausola di salvaguardia sociale, cioè quella regola che impone che il lavoratore segua il lavoro, ovvero che nel passaggio dell'attività da una società a un'altra la società subentrante assuma il personale che precedentemente effettuava questo lavoro. Alitalia non vuole assumerli, al suo posto CAI, la cordata di imprenditori italiani, vuole assumere, e lo ha già iniziato a fare, personale precario, lavoratori a basso costo, senza diritti e minacciati continuamente dal mancato rinnovo in silenzio. Il progetto di Alitalia è chiaro: oggi vuole intanto pulire, vuole tirar fuori l'Argol da questo servizio per poi completamente terzializzare in un secondo momento l'intera logistica, la movimentazione del materiale aeronautico di cui l'Argol, i lavoratori dell'Argol, che è effettuata dai lavoratori dell'Argol, è una parte dell'intera logistica. Alitalia evidentemente ha già individuato un altro compratore dell'intera logistica e a quanto pare la vuole dismettere in un secondo momento. Attualmente si trincera dietro la dichiarata internalizzazione del servizio, ma che effettua questa volta sulle spalle dei lavoratori, lasciandoli appunto a casa. Questi lavoratori chiaramente si stanno battendo già da diversi giorni, hanno dato vita ad un presidio permanente, come dicevo, davanti alla divisione manutenzioni nell'area tecnica di Fiumicino. Si alternano all'interno di un camper presidiando le attività già da qualche giorno, proseguiranno in tutto il periodo delle feste, proseguiranno anche in questo periodo di inizio d'anno e proseguiranno la loro protesta fino a che questa vertenza non troverà, ci auguriamo tutti, non svolterà e non troverà la naturale giusta soluzione, cioè che i lavoratori dell'Argol continuino a lavorare a tempo indeterminato nella loro attività per cui sono specializzati, sono operai specializzati, e all'Italia rinunci a fare da apripista e ad infrangere ancora una volta un'altra regola, quella appunto della clausola sociale. Insomma, all'Italia deve smettere di fare un massacro sociale. L'ha iniziato nel 2008, lasciando 10.000 lavoratori a casa e oltre 25.000 nell'indotto. Lo prosegue quotidianamente. È in questi giorni è viva, oltre alla vertenza dei lavoratori dell'Argol, la vertenza dei lavoratori delle pulizie, a fronte del cambio appalto e della riduzione del capitolato da parte di Alitalia, ma è proprio la richiesta che ha fatto la società subentrante di tagliare i costi e di scaricare questo taglio sui lavoratori. Un 40% di tagli che subiranno lavoratori che non arrivano a 1.000 euro al mese e che viene superato anche di poco dai lavoratori dell'Argol. Insomma, lavoratori tutt'altro che privilegiati, lavoratori che fanno turni notturni, festivi, il cui salario non supera i 1.200 euro al mese dell'Argol, i 1.000 euro al mese delle pulizie, ma che sui quali si vuole abbattere lo spettro del licenziamento e dei tagli. E in un settore, badate bene, che non è in crisi. La crisi non c'entra assolutamente nulla. In questo momento non stiamo parlando di crisi, stiamo parlando solo della volontà delle aziende di sfruttare la crisi nel settore aeroportuale a Fiumicino e cogliere la palla al balzo per abbattere ulteriormente il costo del lavoro, ovvero per licenziare, tagliare i salari e ridurre i diritti. Davvero uno scempio che deve essere arrestato. qualche giorno fa questi lavoratori sono stati per la prima volta auditi dalla Commissione Lavoro della Regione Lazio. Di questa vertenza è stato richiesto l'intervento da parte del governo, il ministro Passera, ministro dei trasporti, che ha in qualche maniera ispirato l'operazione Fenice, l'operazione che ha prodotto quel disastro di cui parlavamo, è rimasto sordo alla richiesta dei lavoratori, è rimasto sordo il sindaco di Roma, è rimasta sorda la provincia, in questo momento è intervenuta la Regione Lazio e in particolare la Commissione Lavoro. Presto sembrerebbe che ci sarà, si sono impegnati per convocare un consiglio regionale sulla questione aeroportuale, sulla questione dei lavoratori di Alco, sulla questione di Alitalia. Insomma, sembra che attraverso la lotta dei lavoratori si stia squarciando in qualche maniera quella cappa di silenzio che è calata per oltre 2 anni sulla vicenda, sul futuro e sulle situazioni che si vivono nell'aeroporto di Fiumicino. Sì, fra l'altro poi proprio a proposito di quello che stavi dicendo al termine del tuo intervento, le notizie che ci arrivano sullo stato di salute di CAI ex Alitalia, almeno per quanto riguarda la rassegna stampa, insomma, come sai è sempre da prendere con le molle, non sembrano essere delle peggiori, anzi insomma abbiamo letto più volte notizie su una compagnia aerea che si stava rilanciando, su dei conti che si stavano riordinando, quindi sono queste misure di ulteriore precarizzazione della forza lavoro non sembrano essere giustificate da una situazione esterna. Ma guardate, Alitalia è una compagnia ridimensionata. Intanto dobbiamo cercare di capire quello che è successo. L'Italia aveva fino al 2008 un vettore, una compagnia globale, un vettore che faceva anche, che trainava un intero asset produttivo importantissimo come quello del trasporto aereo. Dal 2008 la privatizzazione ha imposto un ridimensionamento, l'Italia è diventata quello che denunciavamo che poteva diventare. Si sono concretizzati i nostri peggiori auspici, cioè una compagnia, un vettore nazionale, non più una compagnia di bandiera, con un network ridimensionatissimo, con degli aerei in flotta che svolgono di fatto atti a svolgere un traffico di medio raggio, quindi un vettore nazionale o poco più che regionale, un vettore picco, un vettore ancillare a quello che molto probabilmente sarà il vettore di riferimento, quello l'Air France. Già Air France è il principale azionista di Alitalia, lo diventerà secondo le nostre previsioni entro breve tempo, e molte attività, e qui è la grossa, il secondo aspetto di cui è importante riflettere, nella delocalizzazione delle attività si sacrificherà di fatto gran parte delle attività di terra che verranno appunto trasferite oltre Alpe nel momento in cui si concretizzerà la definitiva acquisizione da parte di Air France e di Alitalia. Questa battuta d'arresto nel processo di assorbimento completo da parte di Air France di Alitalia, determinato da uno stato di crisi che Air France ha subito, sembra avere sembra solo rinviare definitivamente il progetto. Tra l'altro la cordata imprenditori italiani aveva annunciato che avrebbe ottenuto un pareggio di bilancio. Quel pareggio di bilancio non si ottiene e non è stato ottenuto nonostante tagli indiscriminati, come dicevo, del lavoro, ma non solo del lavoro. Ormai in compagnia i lavoratori sono privati anche dei diritti minimi essenziali, quelli di un luogo di lavoro sicuro, pulito. Siamo veramente al rattoppo, e non certo per una situazione di crisi, insomma, perché il trasporto aereo, il traffico passeggeri nazionale continua ad aumentare anno dopo anno, e così anche quello merci. È soltanto una scelta industriale, è una scelta industriale che il nostro paese, la politica, ha accettato nel corso degli anni, ha accettato che il trasporto aereo italiano venisse controllato in qualche maniera da un vettore straniero, da un altro tipo di, non certo insomma che venisse mantenuto saldo nelle mani italiane. E si è abdicato anche in questo settore alla colonizzazione, in questo caso dei francesi. Di fatto questo non è soltanto una denuncia di tipo nazionalistico, ma il problema è che questo ha comportato migliaia di licenziamenti e ne continua a comportare. E in questa situazione addirittura poi c'è la famelica volontà delle aziende di approfittare della situazione e di infliggere ai lavoratori ulteriori sconfitte che davvero non si capisce dove possano continuare ad arrivare. Antonio, l'ultima domanda prima di lasciare la parola magari a lavoratori e lavoratrici della Argol, per quelle che sono le vostre notizie, le vostre informazioni, i piani molto sbandierati di espansione dell'aeroporto di Fiumicino con creazione di nuove piste, traffico in deciso aumento, ecco, rispondono a realtà in qualche modo o sono soltanto giochini giornalistici? Qual è la situazione? No, in realtà per quanto noi ne sappiamo, perché è quello, lo leggiamo insieme ai cittadini italiani sui giornali, la Regione Lazio, la Presidente Polverini sbandiera a tutto il mondo che ha investito per i prossimi anni oltre 15 miliardi di euro per l'ampliamento delle piste a Fiumicino. Però nel frattempo, fino ad oggi, la politica, anche la Presidente Polverini nello specifico, che ha avuto un ruolo essenziale su quello che sta capitando a Fiumicino, si è girata dall'altra parte. E questo è ancora più, è una contraddizione che grida vendetta ancor più della situazione già drammatica che vi ho raccontato. C'è un settore in espansione, perché come dicevo il traffico passeggeri aumenta, perché come dicevo il traffico merci aumenta anno dopo anno, su Fiumicino si fanno investimenti anche di ordine pubblico, ma ai lavoratori gli si riserva un cambio di guardia, quindi licenziamenti per i lavoratori a tempo indeterminato, alla faccia questo delle difficoltà che hanno, che denunciano le aziende a effettuare i licenziamenti, alla faccia di quelli che dicono che deve essere cancellato addirittura l'articolo 18, le aziende effettuano licenziamenti e già da oggi assumono personale precario. Questa è la realtà, su questa realtà i ministri dovrebbero piangere, dovrebbero porre davvero rimedio anziché fingere di pentirsi di scaricare sui cittadini italiani manovre davvero inaccettabili e inique. Questa è la situazione e contro questa situazione sono anni che ci battiamo. Purtroppo le centrali sindacali confederali fingono di non sapere che il distretto industriale più importante dell'Italia centro-meridionale sono anni che subisce una situazione davvero inaccettabile, sono anni che la concertazione è stata scavalcata a destra dalle aziende, fingono di non saperlo, restano immobili in silenzio e si limitano a registrare le richieste delle aziende nei tavoli di confronto che proprio in maniera davvero si susseguono giorno dopo giorno, ma che i cui esiti, ecco, sono questi, sono i licenziamenti, i tagli salariali e la perdita di diritti. Antonio, ti ringraziamo moltissimo, noi poi ci risentiremo ancora nel corso dei prossimi giorni, visto che ci dici che la mobilitazione andrà avanti a oltranza. Non so se c'era qualcuno lì del presidio che voleva intervenire. Sì, io vi vorrei passare qualche lavoratore direttamente interessato, anche perché vi può rappresentare più specificatamente la situazione che vive, le angosce che si tramutano, che si concretizzano in questi giorni, insomma, e anche che racconti la lotta che stanno effettuando già da giorni, lo sciopero effettuato, lo sciopero che faranno, l'assemblea e il presidio che stanno tenendo in piedi, come sta andando. Perfetto. Per cui vi passo Gianni Savarese, un operaio dell'Argol, e vi auguro buona giornata a tutti. Va benissimo, grazie Antonio, ciao. Ciao, ciao. Sì, pronto. Buongiorno Gianni, ciao. Ciao a tutti. Allora Gianni, con Antonio abbiamo fatto un po' un quadro generale della vostra vicenda. A te chiederemo magari nel particolare quali sono le vostre condizioni di vita e di lavoro all'interno della Argol e che cosa sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, le lotte che state portando avanti e soprattutto quali potrebbero essere, come dire, le modifiche del vostro lavoro e quindi anni della vostra vita da qui a partire fino ai prossimi mesi, ecco. Allora, innanzitutto volevo, non so, Antonio ha fatto il discorso generale, nello specifico noi lavoriamo per conto dall'Italia da circa 20 anni, quindi non è una cosa che è nata negli ultimi anni, lavoriamo con Argol da 3 anni, ma sono 20 anni che siamo parte integrante di un settore di Alitalia, che è il settore delle manutenzioni e della logistica. Sono 20 anni che lavoriamo per conto loro, si sono succeduti diversi appalti e tutte le aziende che sono subentrate di volta in volta hanno sempre riassorbito il personale. E adesso che succede? Che il dottor Sabelli, fischiandosi di qualsiasi clausola di salvaguardia sociale, decide di riprendersi il servizio e ci manda a casa. Tieni conto che siamo un gruppo di 70 lavoratori, abbiamo un'età media di 45 anni e ci ritroviamo dall'oggi a domani in mezzo alla strada. E nella migliore delle ipotesi ci becchiamo la mobilità, 2 anni di mobilità, perché sembra che solo questo, al momento abbiamo accesso soltanto a questo tipo di ammortizzatore sociale. Se ci dice bene e se la cosa non si sblocca, dovremo andare a fare una battaglia per prendere un po' di cassa integrazione, quindi andremo ad aggiungersi a questo esercito di disoccupati, di cassa integrati, che vagano come zombie per uffici per andare a prendere a miseria di 700-800 euro per tirare avanti fino alla fine del mese. E questo per un raggio di 2 anni, oltretutto, nella migliore delle ipotesi. Sì, un raggio di 2 anni. Se, allo stato attuale, dal 1 febbraio, noi stiamo in mobilità, quindi varia da 1 a 3 anni, a seconda delle fasce d'età, e stiamo messi così. Neanche detto che ci sia la cassa integrazione. Noi pensiamo, cioè, forse illudendoci, che tenendo duro, andando avanti coi presidi, noi stiamo sotto l'aeroporto con un camper, ci dormiamo, ci stiamo dalla mattina alla sera, ci dormiamo pure dentro, abbiamo fatto iniziative, pensiamo di cercare di coinvolgere l'istituzione, la politica, che cioè, hanno dormito fino adesso, i sindacati ci hanno portato a spasso dai primi di novembre, ci hanno portato a spasso tra un tavolo e l'altro, dalla prefettura all'ENAC, dall'ENAC alla regione, siamo arrivati al 30 e non è uscito fuori niente, l'Italia sta arroccata sulle sue posizioni, se ne frega niente, sta arroccata sulle loro posizioni, tirano dritto e noi stiamo qui, stiamo aspettando i condannati che stanno per andare al patibolo, lentamente ci stiamo avvicinando, mancano 30 giorni all'esecuzione. Sì. Noi pensiamo questo, cerchiamo di, le istituzioni devono cominciare a fare i fatti. Sì. E adesso sono state soltanto parole, belle parole, ci muoviamo, l'articolo sul giornale, noi stiamo lì dentro un camper, ci dormiamo, ci abbiamo fatto le feste di Natale dentro, mentre altri stavano tutti consovigliando, noi siamo stati lì. E ora che qualcuno prenda in mano questa situazione, la nostra, ma non solo la nostra, di una miriade dei lavoratori che stanno dentro l'aeroporto, che sfruttati e vessati. Dal 2008, l'operazione CAI ha devastato un comparto, l'ha devastato. 10.000, sì. Pronto? Sì, sì, ci sei. Ah, ho sentito un bip, scusami. No. 10.000 cassi integrati, licenziamenti, stanno imbottendo l'aeroporto di precari. Quindi il principio che sta passando è questo. Il lavoro stabile a casa, precari a 600, a 700 euro. C'è sta gente che lavora a chiamata, aziende che i lavoratori arrivano e ripresentano a lavorare fra 2 ore. Una cosa inaccettabile. Ci racconti, Gianni, per farci capire, insomma, anche a chi non è del comparto, del mestiere, la settimana tipo, una vostra settimana tipo di lavoro, come funziona? In condizioni normali, ecco. Ma le condizioni normali, torno a ripetere, noi siamo parte integrante di un ciclo produttivo nell'aeroporto di Fiumicino, nella divisione manutenzioni. Noi arriviamo spostiamo il materiale, quindi dalla rondella al motore, nelle varie fasi di lavorazione. Quindi noi portiamo i pezzi, lavoriamo spalla a spalla, lavoriamo proprio in sinergia con i meccanici all'Italia, con chi stocca e distribuisce il materiale, con chi porta il materiale sotto bordo. Quando l'aereo si ferma in pista e deve ripartire, chiamano, noi portiamo il materiale sotto bordo, l'aeroplano fa la manutenzione, e questo così 24 ore su 24, 365 giorni su 365. Noi, questo gruppo di lavoratori, che torno a ripetere, sono 20 anni che fa questo tipo di attività, cioè abbiamo visto crescere questo settore, l'abbiamo portato a livelli di efficienza che forse l'Italia se li sognava. E il ringraziamento è questo: a casa, tutti a casa. Siete troppo bravi, tutti a casa, quindi prendo precari, li faccio lavorare, li faccio sgobbare, li sfrutto, li massacro e poi se mi servono li tengo, se non mi servono li scarico. E questi ovviamente sarebbero tutti lavoratori e lavoratrici giovani, appena entrati, senza alcun tipo di, certo, di salvaguardia, certo, chiaramente. Certo, gente che ha fatto stagionalità, magari hanno fatto una stagionalità ai bagagli, li portano in pista a portare materiale. Cioè non c'è neanche quella esperienza, quella professionalità che, volente o nolente, abbiamo accumulato in 20 anni. Noi in 20 anni di lavoro siamo lì da prima di molti dipendenti all'Italia. Da prima, noi siamo dal 94, siamo stati la prima terziarizzazione di Alitalia. L'Italia ci ha rimbambito, ci ha caricato la testa, capito, di esternalizzazioni. Un giorno si sveglia il dottor Sabelli e tira fuori la parola magica, internalizzazione. È una cosa bellissima, per carità, riprendiamo tutte le attività, le facciamo noi. Se non fosse che poi i lavoratori devono seguire l'attività, non è pensabile di riprendere l'attività e scarichi i lavoratori che per vent'anni ti hanno portato avanti questo tipo di servizio. Gianni, l'ultima cosa che volevamo chiederti: oggi state sotto la prefettura, ci hai detto di questo camper che è accampato lì a Fiumicino, anch'esso 24 ore su 24. Nei prossimi giorni avete in mente altre iniziative oltre a queste che state già portando avanti? Allora, nei prossimi giorni continuiamo. Innanzitutto il presidio del camper va avanti, stiamo cercando di allargarlo ad altre realtà aeroportuali, nel senso che il camper deve diventare un emblema di quello che è Fiumicino allo stato attuale. Stiamo lavorando su questo per allargare il fronte. E dopodiché per il 13 è in programma uno sciopero detto dalla CUB Trasporti, in cui stiamo lavorando per allestire una grossa assemblea coinvolgendo una buona fetta della politica, sperando che si presenti, no? L'auspicio è quello, anche se l'auspicio è questo, anche se purtroppo ecco non ci sono elezioni in vista, quindi sì, quando non ci stanno le elezioni i politici tendono sempre un pochetto a latitare e a defilarsi. Ai noi, se c'era qualche elezione penso che c'era la fila. Questo qua sfondi una porta aperta, purtroppo sappiamo come vanno queste cose, anche perché stiamo seguendo una vicenda che tutto sommato è abbastanza simile a quella vostra, riguarda il trasporto ferroviario con le esternalizzazioni, esatto, certo, e le internalizzazioni dei vagon lì, eccetera eccetera, anche lì un mese di occupazione, insomma, quindi la vicenda purtroppo la conosciamo abbastanza. Va bene, sì, dimmi. No, certo, proprio ricollegarmi a questo. Stiamo su una polveriera. Sì. Stiamo su una polveriera. Qui una responsabile della prefettura afferma testualmente che se dovessero mandare forze dell'ordine per ogni presidio, assemblea o sciopero che ci sta nel territorio fra Roma e Lazio, non vanno in ferie per 6 mesi di fila. E del resto, insomma, siamo su una polveriera, non potrebbe essere altrimenti. Va bene, Gianni, ti ringraziamo moltissimo e ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo, anche se non ci sentiremo entro domani. Gli auguri per un anno prossimo migliore di quello che sta andando a finire, e ovviamente però l'appuntamento con noi è già dai primi giorni del prossimo mese, del prossimo anno, in vista di questo sciopero del 13, ma anche insomma attendendo magari qualche novità migliore rispetto a quelle che sono arrivate fino adesso. D'accordo, ti ringrazio, auguri.